Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Benvenuto Mussolini! Sono più degli scorsi anni, arrivano dalla Puglia, dal Lazio, dalla Lombardia, da tutta Italia, anziani, giovani, bambini. La città natale del Duce sembra rassegnata ad accogliere questo raduno. Il turismo mussoliniano porta soldi e quest'anno è scattata anche una tassa per i pullman di 30 euro al giorno. Dietro le bandiere i camerati in fila per quattro con 2 metri di distanza. Questa divisa cosa rappresenta? Quando c'è stata la marcia su Roma era la divisa dei squadristi. Dove l'ha comprata? L'ho fatta fare. Marciano e pregano davanti alla tomba del Duce al cimitero di San Cassiano. C'è anche un prete, padre Tam Lefebriano, in passato candidato di Forza Nuova. Benito Mussolini che ci sta guardando dal cielo, come ti dà ragione la storia? Benito Mussolini che ci sta guardando dal cielo, il prete celebra la messa a Predappio, città natale del Duce, il luogo dove appunto è sepolta la sua salma dopo Piazzale Loreto, dopo una vicenda anche piuttosto travagliata. Predappio è il luogo liturgico dove convergono tutti i nostalgici del fascismo. Ce ne sono tanti, ma ce ne sono anche che vengono dall'estero, vanno a Predappio, c'è una sorta di passaggio rituale, ci sono negozi, bancarelle dove si vende di tutto, le matite col Duce, le magliette con la testa del Duce con scritto me ne frego, i manganelli con scritto boia chi molla, c'è tutta una serie di gadgettistica ducesca che permane sempre la stessa ormai da una sessantina d'anni, 70 anni che viene confezionata proprio per chi ancora diciamo ha questo tipo di nostalgia. Andando avanti viene l'idea che in Italia forse sarebbe il momento che questa materia fosse trattata in maniera più seria, in maniera meno legata al pathos o all'ideologia, che ci fosse insomma in Italia un luogo in cui venga trattato come un periodo storico equivalente a qualsiasi altro periodo storico, anche se è un periodo molto controverso, però probabilmente è ancora non particolarmente digerito, non particolarmente elaborato, anche il ventennio fascista. Beh, questa proposta viene proprio invece dal sindaco di Predappio, sindaco PD, sindaco che non ha assolutamente nessun sospetto di nostalgie neofasciste, ma che ha detto, visto che da noi vengono un sacco di persone, visto che questo luogo è intriso di storia di quel ventennio, facciamolo qui il museo del fascismo. Cosa pensate? È il momento che gli italiani abbandonino o la loro coda di paglia o il loro apparato ideologico e cominciano a trattare il fascismo come si tratta qualsiasi altra epoca storica? Ci sono anche i musei degli anni Ottanta, ci sono i musei della Resistenza, ci sono i musei del Risorgimento, i musei delle guerre puniche, c'è di tutto, ma non c'è un museo del fascismo. Vogliamo finalmente decidere che in questo periodo, con tutte le sue controversie, le sue ambiguità, debba essere trattato come un periodo storico come un altro, farne i conti, vedere, osservare, tirare fuori i reperti, analizzarli, renderli visibili, o questo ancora viene considerato un'apologia? 800 24 00 24. A 5 anni, io sono nato nel 31, a 5 anni ero vestito da Lupacchiotto e mi ricordo che era un grande onore di quei tempi essere Lupacchiotti fedele. L'ultimo discorso a Piazza Venezia, io ero sotto il balcone, avevo 20 anni, oggi ho 86 anni e benedico le ossa di Mussolini. Io sono venuto sul da vetralla, dico magari. Ci fa ancora paura tutto questo? Io dico che parlo della mia autobiografia, nasco negli anni 50, quindi in un periodo di transito, vengo da una famiglia che era stata radicalmente fascista in tutte le generazioni, da bambino giocavo con l'orbace del nonno, ho conosciuto decine di persone che giravano con i teschi, con i medaglioni con il Duce, con i fasci, che sentivano i discorsi di Piazza Venezia all'infinito, avevo una zia che ai bambini, ai suoi figli, invece che la ninna nanna, cantava Battaglioni del Duce Battaglioni. Questo per dire che appartengo a una generazione abbastanza contaminata, ma posso vedere altrettanto con distacco, quasi con un senso di comprensione per idee che rimangono inveterate, legate nelle persone, appartengono a altre generazioni, ma sentirei il bisogno che tutte queste vicende vengano trattate non soltanto dai bancarellai o non soltanto dai nostalgici che si fanno fare dal sarto il vestito completo da squadrista della prima ora e vanno a Predappio in drappello e fanno il saluto al Duce. Rimangano, facciano quello che vogliono, averne paura, esorcizzarli e chiuderli in un recinto, forse la maniera più sbagliata per fare un discorso ormai storicamente, scientificamente corretto sul ventennio fascista. 800 24 00 24. Una fede comune, un ideale, un qualche cosa che ci accomuna tutti, e un paio di volte l'anno ci troviamo qui per farci vedere che ci siamo ancora, anche noi, anche se siamo nostalgici, oramai siamo classificati così come nostalgici. Comunque per noi è importante venire. Viva l'Italia, quella di una volta! Viva il Duce! Duce! Beh, perché stimo una persona come Benito Mussolini. Lo stimo e... Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio, buongiorno. Buongiorno. Quello che abbiamo raccolto con testimonianze che stanno in rete ormai anche da anni, presi dal sito del Fatto, del Corriere della Sera, è, diciamo, la normale e consueta transumanza di nostalgici verso Predappio, e questa è una cosa ormai conosciuta, saputa, risaputa. Uno va a Predappio anche perché c'è questo folklore della nostalgia. Lei però vorrebbe trasformare questa nota di folklore di colore in qualcosa di serio, di storicamente accettabile, o sbaglio? No, io mi ritrovo esattamente nelle parole della sua introduzione, cioè siamo arrivato il momento di cambiare, cioè quello che si ascolta e si vede a Predappio è ancora accettabile, cioè con questa gente che viene col FES, che ha questi rituali, poi intruppati da un prete, insomma, con degli slogan che non hanno veramente niente a che fare con un periodo storico che ha durato 20 anni ed è stato molto importante nella vita di questo paese e soprattutto in Europa, e che ha segnato non solo la storia collettiva ma anche la storia individuale di ognuno di noi. Ecco, quando è cominciato, signor sindaco, il pellegrinaggio verso Predappio? E altra cosa, non esiste una forma di tutela dell'ordine pubblico, delle leggi che impediscono l'apologia del fascismo, per cui questo tipo di manifestazioni in qualche maniera siano controllate? Lo chiedo come mia curiosità. Così, a Predappio le persone sono sempre venute. Prima della guerra venivano per vedere i luoghi del giovane Mussolini. Dopo la guerra, dopo che è stato appeso sopra un distributore di benzina a Milano, per un po' non è venuto nessuno. Poi un altro predapiese, Donezzoli, ha riportato la salma. La Presidente del Consiglio, Dolezzoli, riportò la salma a Predappio, e dal 57 sono cominciati a tornare i visitatori, soprattutto per vedere la tomba. Ma come si viene a Predappio? Negli anni 50 e 60 si veniva con le orecchie basse, cioè nel senso che le ferite del passato erano ancora sanguinanti. Erano i veri, quelli che ovviamente hanno fatto una scelta radicale nella loro vita, che andavano lì quasi con timore, perché era abbastanza anche rischioso in quel periodo dichiararsi nostalgici. Negli anni 70 si veniva a fare a pugni, ma a botte, tutta Italia era l'arena giusta a confrontarsi a Predappio, finché addirittura mettono una bomba nel nostro cimitero, non si sa come fare. La svolta appare nell'83. Lei quanti anni aveva, Frassinetti? Ah, io ho 50 anni, quindi negli anni 70 avevo 12 anni. Era un bambino, sì. E la mia mamma non mi faceva uscire di casa a giocare a pallone perché aveva paura, perché c'era chi doveva giocare alla guerra. E quindi... Ma sono una famiglia nostalgica, lei è un sindaco PD, quindi... No, io sono una famiglia di sinistra da sempre. Quindi non c'è sospetto che lei dica questo, no, faccia questo, perché anche lei è in fondo a nostalgia della cosiddetta buonanima, come si dice in gergo, dei nostalgici. No, io sono nato a Predappio, per me, perché Predappio è stata una città costruita ex novo, c'era Dovia, una piccola frazione, e quindi per alimentare il mito delle origini di Mussolini si crea una città con tutto, con l'architettura del periodo, quindi costruita artificialmente per dare il grande sacrario del Duce quando era ancora vivente. E quindi queste geometrie, questi palazzi, questi mattoni, questi marmi appartengono ai predappiesi, noi li vogliamo bene. Cioè, il velo ideologico molte volte non è solo verso un periodo, ma addirittura verso un'architettura, verso dei muri. Quindi, però volevo dire questo, che quindi cambia un po' la questione nell'83. 100 anni dalla nascita di Mussolini, a Predappio vengono più di 25.000-30.000 persone e non succede praticamente niente. E quindi è la prima risaglia di quello che sta avvenendo nel mondo, perché nell'89 crolla il muro di Berlino, i primi degli anni 90 un'intera classe politica viene spassata lì da Tangentopoli e non si parla più di arco costituzionale, l'MSI viene sdoganato, Berlusconi dice che se fosse un abitante di Roma voterebbe Fini come sindaco. E quindi le cose cambiano, e cambiano anche a Predappio, e un sindaco nel 95 dà il permesso di aprire 3 negozi di souvenir. E questo secondo me sono le magliette, tutto. Le matite, i foulard, esatto. Quelle cose lì le vendono anche lì, in rete, e lì cambia tutto, perché nel momento in cui tu dai il permesso di vendere questa roba qui, e quindi tu deleghi la narrazione di Predappio anche del fascismo ai commercianti, che non hanno nessun interesse del rigore scientifico e storico, loro gli interessa solo far soldi, e per far soldi si vedono delle robe truculente come manganello, l'accendino con il duce, queste cose qua, quella roba lì. Ecco che tutto questo porta oggi nel no, basta andare su internet vedere un'immagine di una Predappio rovinata. Beh, noi abbiamo sì, però sindaco Frassinetti, il duce è il vostro petrolio, diciamo la verità, perché questa è l'attrattiva turistica numero uno. Leggo, non so se corrisponde alla realtà. Nessuno, lo so, però è così a tutti gli effetti, non è che dica una colpa. Beltranelli diceva che Predappio era la terra del niente, dove ci abitavano i pelle rossa d'Italia. A un certo punto si accendono i riflettori per Mussolini ed è ancora così. Ma vero che è aumentato il traffico turistico del 1000%, non so, una cosa del genere. Ma quelli sono dati legati al fatto che ha aperto un resort con molte camere, quindi sono numeri che sono schizzati in alto. Ma sono trattamenti in tema, diciamo, con la nostalgia, che ne so, fanghi neri, cose del genere. No, San Giovese. Massaggio a manganellate, no. No, so no, perché. Assolutamente no. Allora, fermiamoci un attimo, 800 24 00 24. Il sindaco Frassinetti dice: tanto vale che facciamo qui il primo museo del fascismo, qualcosa che in fondo aiuti una narrazione storica fuori dal folklore dei nostalgici. Sì, perché folklore, la gente che va con il Fez che si metteva nel 22, ancora ai tempi nostri, equivale, ne so, alle carnevalate che fanno le proloco quando si vestono da paggetti rinascimentali e tirano con la balestra. Luigia, come la pensa? Buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi, ma è soltanto grande dolore che posso esprimere, perché non si tratta di folklore o di creare un museo, si tratta di una cultura reale della storia. Qui stiamo parlando di un uomo, Mussolini, che si è alleato con Hitler, ha firmato le leggi razziali, ha esaltato gli omicidi in Eritrea. E non possiamo sorvolare questi aspetti della storia. Ma secondo lei il museo può essere solo apologetico? Non può essere una narrazione storica in tutto quello che lei dice venga certificato con foto, con documentazioni, ma come qualsiasi momento della storia. La storia ha avuto momenti atroci, ci sono stati personaggi terribili. Certo. Anche l'importante è che sia ben evidenziato questo aspetto del museo. La storia dovrebbe essere al di là delle ideologie, non dovrebbe essere il museo dei nostalgici, perché sennò se lo fanno a casa loro, ognuno di loro ha a casa gli altarini. La narrazione di Predappio mi sembra proprio vada in quella direzione. Lei invece, lei pensa che a Predappio il museo del ventennio sarebbe semplicemente come fare un parco a tema in un luogo in cui va la gente per quello? Temo di sì. Questo è il suo parere, 800 24 00 24. Se mai voi pensaste, ipotizzaste l'idea di un museo sul ventennio, dove andrebbe fatto secondo voi? Come andrebbe fatto? Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Direttore del Museo Centrale Risorgimento a Roma, è l'uomo che vive sotto il cavallo del re al Vittoriano, che ha tutti i reperti che arrivano fino alla Prima Guerra Mondiale. Con Pizzo più volte abbiamo detto che manca un pezzo importante del Novecento, proprio quello. Come la pensi, Marco Pizzo? Ma io concordo con il sindaco di Predappio, cioè tutto questo mancanza di istituzionalizzazione della storia lascia posto a queste manifestazioni un po' pericolosamente folcloriche, definiamole così. Secondo me non verrà nessuna sovversione o nessuna guerra civile dai vecchietti che vanno con il Fez a Predappio, però fa ridere che sia solo quello la rappresentazione del momento. Perché esiste solo quello, cioè c'è un luogo deputato, secondo me, che è l'Archivio Centrale dello Stato, che conserva decine di casse della mostra della rivoluzione fascista, che tra l'altro è stata studiata e indagata in Italia e all'estero, e quindi non ha nessuna tema di apologetica del fascismo. Perché non riutilizzare questi materiali per fare degnamente un museo di storia che aiuterebbe a capire e quindi naturalmente fa vedere anche la tragedia che è successa durante il fascismo, ma questo si evita. Ecco, in Italia non c'è nulla, Marco Pizzo, tu che conosci bene il paese, diciamo c'è un periodo che dal 22 al 44-45 non esiste né musei rappresentato. No, non esiste dei musei rappresentato, anzi esistono solo dei piccoli tentativi, uno significativo però recentissimo, per esempio a Salò, c'è un museo della Repubblica di Salò, o comunque un archivio della Repubblica di Salò, che è un centro studi. Ma è apologetico, cioè ci vanno gli ex repubblichini, oppure... Assolutamente no, è un centro internazionale di studi a livello universitario, accademico, e che cerca di affrontare con certezza questo argomento. Ma il discorso del fascismo riguarda tutta la storia contemporanea in Italia. Non esiste un museo di storia contemporanea. Non si parla del fascismo, non si parla del dopoguerra, non si parla del boom economico. È come se la storia fosse finita ai tempi miei cari del Vittoriano, cioè alla fine della Prima Guerra Mondiale. Dopodiché non c'è nessun museo di storia. Ecco, quali sono i materiali importanti che esistono nascosti in Italia, che invece ci aiuterebbero a ricomporre anche delle parti controverse della nostra storia? Mi viene in mente, non so, dei quadri di Sironi bellissimi che erano chiusi con dei pannelli e si sono stati visti solo qualche anno fa, che è un pittore fantastico, che però era un pittore che rappresentava il fascismo. Oppure l'obelisco davanti allo stadio olimpico con scritto Mussolini, che c'era la polemica qualche mese fa, cancelliamo la scritta Dux. Però, per esempio, anche gli affreschi di Sironi o gli affreschi che stanno all'Aula Magna dell'Università di Roma sono stati in qualche maniera censurati negli anni 50, e oggi l'oggetto del dibattito è se mantenere o no la censura perché venivano considerati troppo fascisti. Ecco, secondo me è il momento di superare questo gap che ha portato anche a una falsificazione, a una eccessiva ideologicizzazione del fascismo. Sentiamo Roberto, un attimo solo. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Scusa, sì. Roberto. Allora, io vedo che le pellicole dei giornali vendono giornali e dischi con la dichiarazione di guerra di Mussolini. Visto come è andata a finire, io penso che non sia bene fare un museo per nessuna nazione ricorda le sconfitte. 40 dichiarazioni di guerra, 41 battaglie. Mica può essere selettiva la storia, scusi, è come quando cancellavano le facce dei dissidenti dai ritratti ufficiali. No, ma per esempio a Parigi non esiste la Rue Lipsia o la Rue Waterloo. Ho capito, però esiste il museo con tutto quello che è possibile, immaginabile, rappresentabile e studiato, penso, in Francia, in Germania. Lo stesso, con tutte le cautele del caso, si studia anche il nazismo. È vero. Allora forse bisognerebbe fare un museo in cui non si potrà fare a meno di denunciare l'errore di questa. Ma il museo racconta la storia, secondo me. Sì, ma infatti il museo racconta la storia. No. Noi confondiamo un museo come una sorta di sacrario apologetico. Il museo del fascismo ce lo immaginiamo con tutti i capoccioni del duce, i fasci, e le persone vanno lì e fanno il saluto romano, che ci saranno pure, non dico di no, ma il resto dell'umanità che vuol capire veramente cosa è successo, e lo dico perché avevo le casse piene di reperti a casa, i libri di scuola, le mostrine del nonno, i ritratti con la firma, quindi so che erano cose che comunque raccontano una storia, anche per far capire cosa è stata la storia. Renato, buongiorno. Buongiorno. Forse il mio intervento non riguarda tanto il museo. Vorrei fare una testimonianza, essendo nato nel 1936, con i genitori fascisti, brave persone, però sai, l'impero, quelle storie lì. Ma no? Tutti, penso, i nati nel 1936 avevano i genitori fascisti, salvo l'1%. Sì, quindi... certo. Come no, quasi tutti quelli nati negli anni 50. Sì. Poi volevo fare, non so, l'avevo già detto, che io sono un comunista, però nel senso di filosofia marxista, ecco. Ma volevo dire che però i miei ricordi riguardano a delle cose che il fascismo a Sanremo aveva fatto, a prescindere dalla guerra naturalmente, prima aveva fatto bene, che sono ancora esistenti adesso, che sono l'unico ospedale, l'unico campo da football e l'unica scuola elementare, e sono ancora adesso attivi, per cui qualche cosa aveva fatto, si è visto che in seguito non hanno fatto più niente, anzi aveva dato le basi per costruire una città vivibile, e che poi invece con le disgrazie del dopoguerra niente, fanno venire la voglia di per uno che è contro la pena di morte. È comprensibile quello che dice lei, lo dice da marxista filosoficamente convinto, quindi al di là delle possibili accuse. Quello chiederò al sindaco Frassinetti fra qualche minuto, dopo la pausa per la pubblicità, è: ma può esistere un museo che non sia soltanto in questa manichea divisione, quello che ha fatto di buono il fascismo e quello che ha fatto di cattivo il fascismo? La storia viene raccontata. È ancora classificare il reperto in quello che ha fatto di buono e quello che ha fatto di cattivo vuol dire lasciare aperta una dialettica che da una parte per coda di paglia, da una parte per ideologia assoluta, non permette una serena visione della storia. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Questa croce di ferro l'ho guadagnata a Bobbio Pennice, spingendo un attacco notturno dei partigiani. Ma il senso qual è? È dei valori dei nostri padri, i valori della nostra patria, cose che sono sparite totalmente. Ricordiamo solamente più noi questi valori. Camerati caduti della Repubblica Sociale Italiana! Presente! E per Benito Mussolini! .800 24 0024. Per questo noi avremmo paura di fare un museo che racconti la storia del ventennio, come si racconta la storia nei musei, per paura che diventi ricettacolo di un manipolo di nostalgici. Questa domanda che ci poniamo stamattina, dato che il sindaco di Predappio, città natale del Duce, costruita sulla necessità di creare un luogo storico attorno alla figura di Mussolini, dice facciamolo qui, visto che qui ci viene tanta gente, abbiamo tanti ricordi e tante cose. Dall'Italia mi stanno scrivendo e l'idea generale è che forse sarebbe il caso che venisse fatto questo museo, ma non proprio nel luogo in cui converge tutta la nostalgia post-fascista. Anzi, qualcuno dice andrebbe fatto a Roma, il luogo ideale dove andrebbe fatto un museo che parli anche di questa parte del Novecento. Però c'è qualcuno che protesta da Carbonia, oggi Iglesias, appunto città mussoliniana, dice anche qui da noi potrebbe essere fatto un museo legato a Mussolini. Ritorniamo sempre al punto di partenza. Di fascismo non si riesce a parlare se non pro e contro. Facciamo un museo ma soltanto le cose buone del fascismo, oppure non facciamo un museo, cancelliamo tutto perché è stato un momento terribile per l'Italia. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Come la pensa lei? Ma io ho mandato prima un messaggio, vedendo Predappio, diciamo, avendo anche studiato e vissuto nelle vicinanze, quello di Predappio è un po' un fascismo folcloristico che fa vedere un po' un lato di folklore fascista, diciamo il parco a tema, la Disneyland dei neofascisti. Sì, esattamente. Farci questo, sì. Un museo che fa vedere anche il dolore che ha rappresentato il fascismo, sia a livello della guerra, di politica interna, sia a livello di colonialismo aggressivo, secondo me sarebbe da una parte una cosa utile, però da un'altra parte il turismo di cui si nutre Predappio, secondo me, avrebbe un bel contraccolpo. Secondo lei un museo storicamente corroborato sarebbe un danno al turismo, perché i nostalgici Predappio sicuramente si sentirebbero oltraggiati nella memoria non cristallina del loro idolo. Maria, buongiorno invece. Buongiorno. Sì. Io sono di Bolzano. Nel 1925 Mussolini ha costruito un monumento alla vittoria che è stata una spina nel fianco per la gente di lingua tedesca. È stato addirittura recintato, insomma era praticamente avversato da tutti. Alla fine la destra lo ha strumentalizzato per proprie cose. Quest'anno finalmente è stato riaperto, nella cripta hanno messo un grande museo dove sono stati messi foto, video e tutto quello che era possibile, con obiettività, senza commenti, soltanto con una descrizione esatta delle cose. È stato accettato anche dalla gente di lingua tedesca, non è più oggetto di strumentalizzazione, è stato visitato da 60.000 persone. Io l'ho visto due volte e l'ho trovato meraviglioso. Un museo obiettivo che non strumentalizzi le cose. Ecco, cosa si vede per far capire, perché noi così non parliamo tutto sempre in astratto. Dal 1900, quello che è successo dal 1925, da quando cioè l'Italia ha vinto la guerra e la guerra del 25 sono state incamerate dallo Stato italiano. Poi le conseguenze degli anni 60, le bombe, eccetera, eccetera, insomma, no? Quindi è un museo legato alla vostra particolare storia, diciamo, di terra, esatto, di confine. Esatto, c'è questo monumento che è stato creato apposta dal Duce con tanto di fasci littori, eccetera, eccetera, con dentro proprio fascista, diciamo, il monumento. Beh, chiaro. E adesso viene accettato così com'è, una cosa storica, però dentro nella cripta hanno messo tutta quanta la storia con obiettività, è stato visitato dalle scuole e da un sacco di persone, di ambo i gruppi etnici. Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio, PD, lo dico perché sennò per chi fosse messo in ascolto da adesso potrebbe pensare che è un'operazione turistico, di marketing turistico nostalgico. Propone, facciamolo a Predappio il museo del fascismo. La, diciamo, la pregiudiziale che emerge dalle telefonate che ci stanno arrivando dagli sms, dice sì, ma proprio a Predappio, se fate un museo obiettivo e storicamente serio, i nostalgici poi non ci vengono più, rimangono male. Lei come risponde a questa, questo tipo di ipotesi? Guardi, io sono sindaco da 6 anni e ho davanti a me 4 anni. Tra l'altro voglio salutare Marco Pizzo, che ci siamo conosciuti parecchio tempo fa, perché io avevo letto un suo articolo molto bello dal titolo «È musealizzabile oggi il fascismo?». Cioè, questo è proprio il tema di oggi. E quindi da lì poi mi è venuta anche questa voglia di dare un contributo. Predappio, per il nome che porta, per il fatto che c'è nato Mussolini, c'è la sua tomba, vengono centinaia di migliaia di visitatori all'anno. Quanti ne vengono all'anno, per capire? Il numero esatto non si sa, però se si contano le scritte messe nel cimitero e nel nostro, insomma, e le visite alla casa Mussolini, sono sicuramente più di 100.000, cioè c'è chi dice 150.000. E qual è il percorso che si fa? Diciamo, come funziona il percorso? Si arriva a Predappio con il pullman o in macchina? Poi? Ma dipende, perché ci sono quelle scene o quelle frasi che abbiamo sentito prima, sono 3 volte all'anno, quando è nato, quando è morto e la marcia su Roma. Durante tutto l'anno invece c'è un turismo di curiosità storica, non vengono vestiti col fes, eccetera. In quei giorni sì, perché fanno, so, è la ricorrenza. Beh, come il santo patrono, grazie. Il giorno lì sì. E quindi vengono a vedere il museo urbano, vanno alla casa dove è nato, vengono in comune. Io ho l'ufficio del sindaco e dove viveva Benito Mussolini da giovane, capito? Quindi vengono a toccare la sua sedia, la sua scrivania. c'è chi me lo chiede. E quindi dopo poi vanno al cimitero, stanno a Predappio e poi dopo vanno a casa. Quindi, fanno la messa con il prete che... No, solo quei 3 giorni che dicevo, quando è nato, la morte e la marcia su Roma. Ma quanto durerà secondo lei questa cosa, anagraficamente? Perché rimanga un legame di sangue nelle famiglie, o quella gente si faccia fare il fez e l'orbace dal sarto di famiglia e poi vada lì. Quanti anni possono passare ancora? Ma ci sarà sempre un folklore, no? Però è sempre meno rispetto al turismo di curiosità storica. Guardi, negli ultimi 2 anni io ho ricevuto anche delle classi scolastiche, che era impensabile una gita scolastica per dare solamente 5 o 6 anni fa. E io faccio da cicerone anche per proteggere gli insegnanti, perché guarda, c'è un sindaco di sinistra, ci ha spiegato lui una narrazione di Predappio di un certo tipo. Predappio è all'interno di una rete europea, Euroma, che è a memoria dell'Europa, dove dentro c'è il Memoriale della Shoah di Parigi, il Museo della Liberazione della Schiavitù di Nantes, il Museo della Seconda Guerra Mondiale di Varsavia. Cioè, voglio dire, la domanda è ancora quella: è musealizzabile oggi il fascismo? Ma non mi viene a pensare una cosa, ammesso che tutto questo avvenga a Predappio, reperti anche, diciamo, delle leggi razziali, della Shoah, delle responsabilità fasciste nello sterminio degli ebrei, come potranno poi convivere 3 volte all'anno con la transumanza di quelli col fez che vengono a dire viva il Duce? Ma io voglio dire, c'è da una parte chi vorrebbe che questa... Lo chiedo, non è che mi desta scandalo pensarlo. Io penso che le due cose possono convivere, anzi, proprio una presenza culturale spaventerà queste persone e quindi sarà sempre meno. Penso che con la cultura si vince. Credo che capire non significa perdonare. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento a Roma, la vicenda di Bolzano ne è a conoscenza di questa, diciamo, riappropriamento di un riappropriazione di un museo, di un luogo, di un monumento iper mussoliniano in un posto che fa 600.000 visitatori all'anno, non sono pochi. No, ne ero a conoscenza e rappresenta secondo me l'esempio perfetto di come si può stemperare un monumento che era stato oggetto di critiche e di battaglie ideologiche facendolo diventare un museo. Poi lì di tensione ce n'è tanta, ragazzi, vi ricordiate cosa è stato negli anni 50, 60, 70 quella zona lì per le tensioni che c'erano? Non è che era un posto dove si sparava, si mettevano bombe, non era un posto proprio tranquillo. Ma proprio la musealizzazione ha consentito di far conoscere le cose. Ecco, conoscere le cose significa far decantare il folklore, far decantare comunque queste vedute opache e unilaterali. Il percorso che vuole fare il Comune di Predappio, secondo me, è giusto, ma è giusto se messo in un contesto che valorizzi le città di fondazione, il razionalismo, Predappio insieme a Forlì, Cesena, cioè tutta l'area che in qualche maniera venne cambiata durante il fascismo e conserva i segni nel bene e nel male, cioè basta semplicemente mostrare gli avvenimenti. Quindi bisogna capire, Marco Pizzo, dovrebbe essere un progetto nazionale con un museo che come un'area diffusa che nei vari luoghi toccati sono trattati in maniera museale, poi esistono la riapertura dei reperti, ma esistono, diciamo, dei curatori neutrali, degli storici che possono essere dichiarati oggettivi, che possono gestire questo materiale che vedo che è ancora abbastanza incandescente nonostante i decenni passati? Ma sicuramente, oramai gli studi storiografici sul fascismo hanno superato abbondantemente gli schemi e le barricate, specialmente negli ultimi 20 anni la storiografia è enorme a livello italiano e internazionale. Si pensi solo che ultimamente sono uscite 2 bellissime guide della Roma fascista fatta dal Centro Studi Tedesco di Roma, che è tutto l'opposto delle esegesi, ma fa vedere proprio la trasformazione radicale che subì Roma durante il fascismo. Da città libera diventa una sorta di città sotto il controllo della polizia nazista. Fermi un attimo, traffico, riprendiamo con Marco Pizzo fra un istante. Melog, cronache meridiane. (800) 24 0024, parliamo della possibilità di fare un museo sul ventennio fascista in Italia, iniziativa che parte dal sindaco di Predappio, città natale musealizzata in sé durante il ventennio perché appunto ha dato i natali al Duce. Ricordo agli ascoltatori, sono messi in ascolto da poco, che in questa edizione di Melog iniziamo a mezzogiorno, cominciamo un po' prima, quindi da domani a mezzogiorno inizia l'ascolto di Melog. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi contattato. Volevo parlare di un'esperienza che ho fatto questa primavera. Sono stato a Norimberga e a Norimberga c'è un centro studi, un museo del nazionalsocialismo e mi è venuto in mente appunto e volevo riportare questa esperienza proprio in merito alla proposta del sindaco di Predappio. Però Fabrizio, è un po' diversa, Norimberga è la città simbolo, è stato fatto il processo dei vincitori contro i nazisti, lì ci potrebbe anche stare l'idea, perché Norimberga l'associamo ai criminali nazisti che ascoltano la cuffia la sentenza, a quelli impiccati, a quelli suicidati, insomma un museo lì è il museo, diciamo, della rilettura del passato. Predappio forse sarebbe un po' diversa, o sbaglio? Sì, infatti Predappio non mi sembra diciamo la location forse più giusta. Però che non ci sia in Italia un museo sul periodo fascista che possa raccontare anche come memoria storica per le generazioni, penso non so ai miei figli che possono studiare questo periodo sui libri ma non hanno la possibilità di vedere documentato questo periodo, mi sembra una grossa lacuna, anche in considerazione di quello che vedo negli altri paesi, insomma. Grazie Fabrizio. Giacomo, buongiorno, 26 anni. Sì, scusate, salgo di la voce. Sì, io volevo intervenire, come appena intervenuto sono l'altro ascoltatore, anch'io sono stato in Germania un anno a Berlino e lì sono presenti moltissimi musei, non soltanto sulla Seconda Guerra Mondiale ma anche sull'Olocausto, anche a Berlino ad esempio c'era il museo sul muro di Berlino e secondo me in Italia appunto la storia si è fermata, è vero, si è fermata la Prima Guerra Mondiale. E questo secondo me è un problema perché, sono ancora d'accordo con quello che hanno detto prima, il folklore si batte con la cultura, quindi ci sta un museo, ci sta anche più di un museo di storia contemporanea in Italia. Contemporanea significa degli ultimi 50 anni. E poi anche ci sta Predappio, perché se vogliamo bloccare il folklore, se vogliamo bloccare queste persone che non sanno di cosa stanno parlando, bisogna parlare di che cosa fu veramente il fascismo. Ma loro, lo sa com'è, io lo dico perché da bambino ho vissuto questo clima, è l'eterna impossibilità di far avere una visione critica anche rispetto alla propria storia individuale in generazioni che l'hanno vissuto nella loro carne, che sia manichea la visione del fascismo o dell'antifascismo in certe generazioni ci sta anche tutta, ma che sia necessario a questo punto porre una riga e cominciare a trattarlo come un qualsiasi periodo della storia, secondo me è abbastanza importante. Mi ero interrotto con Marco Pizzo, ricordo direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. Ci arrivano testimonianze che in tutto il mondo, comunque perlomeno in Europa, dove ci sono stati momenti altrettanto sgradevoli e altrettanto difficili, questo passo è stato fatto, ma cos'è che impedisce sia fatto in Italia? Una grande coda di paglia generale che in fondo abbiamo un po' tutti addosso? La cosa fondamentale che impedisce il sorgere di tutto questo è che manca un interesse vero politico a risolvere la faccenda. Si pensi che in Italia non esiste un istituto nazionale che si occupa di storia contemporanea, ne esiste solo uno che si occupa di storia moderna, cioè dal 1400 al contemporaneo. Il contemporaneo viene evitato, non c'è nessuno che si occupi minimamente di fare della storiografia del contemporaneo e quindi si evita di affrontare il discorso, ma anche di altri nodi cruciali che all'estero sono affrontati, come ad esempio il terrorismo. In Italia non se ne parla, è successo ma non si conosce. Non abbiamo nemmeno il Museo degli Anni di Piombo, ce l'abbiamo su tutto il design italiano, dalla Lambretta alla Olivetti Lettera 22, abbiamo un museo sugli anni 80 che vengono studiati, la moda, il design, la genialità italiana, ma sugli anni di Piombo non c'è un museo. No, non c'è un museo, non se ne parla, cioè se ne parla tanto a livello accademico, di scrittura, ma non c'è un museo dove portare per esempio le scuole a vedere cosa è successo in Italia dagli anni 60 agli anni 80, manca, non c'è da nessuna parte. Ci sarebbe materiale, Marco Pizzo, in Italia per mettere su una cosa seria, visto che questo è il tuo mestiere, tu vai raccogliendo reperti e li organizzi come la regola vuole, in materiale fruibile perché possa essere a disposizione degli studiosi, anche delle persone che vogliono fare dei percorsi culturali? Esisterebbe materiale? Ma io do una semplice indicazione. Attualmente a Milano c'è una mostra sul 90 anni dell'enciclopedia Treccani, la Treccani che non a caso venne fondata durante il fascismo. Certo. Ecco, la mostra della Treccani cerca di raccontare l'Italia dagli anni 20 a oggi e lo fa un istituto, che è l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che diciamo ha un certo peso istituzionale. Beh, lì c'era Gentile che ci scriveva, non posso far finta che la Treccani non sia intrisa, esatto, di fascismo. Mi sembra che la voce fascismo la fece Gentile, o sbaglio? La voce fascismo la fece Mussolini che venne censurato dal Vaticano, lui subì le censure e cambiò la voce fascismo. Beh, quindi in qualche maniera qualcuno deve parlare per forza. Certo, e ci sono dei materiali non solo belli, ma anche fortemente evocativi e che riuscirebbero benissimo a raccontare la storia dell'oggi. Allora, Antonio dice che a Roma c'è un museo dove in fondo parla di qualcosa del genere, quello a Via Tasso, dove è il famigerato centro dove venivano torturati e interrogati, diciamo, i sospettati di dissidenza politica e gli ebrei. Antonio. Sì, ecco, appunto, io volevo ricordare questo museo, che non è un museo particolarmente organizzato bene, però è un museo che in qualche modo racconta quello che c'è stato a Roma, in Europa, in Italia, insomma l'Olocausto vissuto dalla parte dei romani. Lì ha lavorato anche Priebke, per cui insomma si trovano un fil rouge che può legare un pochino tutte le vicende che sono accadute relativamente all'Olocausto in Europa. Certo, non è una testimonianza roboante quale dovrebbe esserci in Italia e soprattutto in una città come, ecco, Roma. Questo però è quello che dice un po' Giorgio Frassinetti, sindaco di Predappio. Dice: del fascismo si parla soltanto degli anni della guerra, degli anni detestabili, ma non si parla di quello che è accaduto prima. È un po' questa la lacuna che andrebbe riempita, secondo lei? Frassinetti. Ah sì, ma guardi, è proprio così, ci sono 66 musei in Italia, no? Che parlano solamente degli ultimi anni, cioè quindi la liberazione, quello che è avvenuto, eccetera. Quello che manca è quello che è avvenuto prima. Credo proprio che noi scontiamo, secondo me, la paura che in Italia vediamo un museo solo come un luogo celebrativo e non invece un luogo dove un luogo di narrazione. Ed è abbastanza strano, perché il fascismo, che è patrimonio di tutti gli storici italiani, perché è studiato, ci sono cattedre poi in tutto il mondo, penso in Inghilterra, che sono proprio legate allo studio del fascismo, da noi non ma vengono studiosi a Predappio a studiare i luoghi? Tantissimi, Dagan ultimamente mi ha chiesto, il professor Dagan mi ha chiesto di stare all'interno di un progetto europeo, insomma, ma in continuazione dalla Germania. Volevo dire che a Monaco ultimamente hanno aperto un centro studi sul nazismo, a Monaco. E quindi perché l'hanno fatto lì? Perché per studiare certi fenomeni, luoghi e simboli sono importanti. Quindi io credo che l'idea di fare un museo a Predappio non dimostri il fatto che io sono impazzito, ma è proprio perché credo che sia il luogo giusto per parlare e affrontare questo periodo storico. Così difficile, ci si scotte, ci si brucia tutte le volte. Sentiamo Mario. Mario, buongiorno, 91 anni. Pronto? Sì. Chi è? Lei è il presentatore. Sì, il presentatore. Allora lei è un preclaro presentatore e giornalista. Sì. Magari fossero tutti come lei. Vabbè, adesso qual è il tema? Vabbè, no, il tema è innanzitutto avere che mi fa piacere avere che sia aver istituito un museo per Benito Mussolini. Ecco, questo sono d'accordo al 100%, anche perché io sono un balillo moschettiere, vero? Della 28ª regione. Sì, ma non è che il museo significa che facciamo il sacrario del duce, non si illuda, il museo racconta tutto, anche gli aspetti negativi del fascismo. Sì, ma certo, e poi la compensazione, vero? Poi si vedrà della compensazione, quelle che ha fatto di bene e quelle che ha fatto di male. Sì, sì, no, scusi, io ho tanto rispetto, figuriamoci, però non è il senso del museo, non è per fare col bilancino se c'aveva ragione la buonanima o no, è che ormai fa parte del passato e va studiato come lei studia Napoleone, come lei studia Garibaldi, come studia Cavour, Mazzini, studia anche Mussolini. No, non è che la buonanima torna sulla terra per riavere giustizia, ormai la storia è fatta, però bisogna raccontarlo anche per quello che è stato. Mi sembra ci sia una grande paura di raccontarlo, d'accordo lei? No, io non ho paura, perché ho vissuto da piccolo, io provengo da quello, quando andavo a trovare i miei nonni, sia materni che paterni, mi inginocchiavo e baciavo la mano. Adesso li ammazzano, ecco. Vabbè, lei fa parte, diciamo, degli ostaggi. Sentiamo Francesco per chiudere. Francesco, mi sembra che sia l'antitesi opposta a Mario, 91 anni, ex balilla moschettiere. Allora, a parte che diciamo che questo fa capire bene la situazione storica della vicenda, saluto tutti, lei compreso, e dico che è una buona idea. Lei medaglia d'oro alla Resistenza? No, no, io non sono medaglia d'oro, è la provincia di Massa Carrara che è medaglia d'oro per quel che riguarda la Resistenza, ma questo non vuol dire granché per quel che riguarda la vicenda. Ritengo che invece sia molto importante la musealizzazione di questo periodo storico, proprio perché le strumentalizzazioni si innestano proprio su queste vicende, su queste situazioni. Abbiamo sentito ora una persona di quell'epoca lì che ha 91 anni e che ha una visione del mondo che è totalmente diversa. Vabbè, ma nemmeno secondo me vale la pena di pensare di dovergliela cambiare, ha 91 anni, la sua vita. Assolutamente, assolutamente. Anzi, lo metterei in un museo a raccontare la sua storia, proprio, senza proprio paura. Perché servirebbe a svelenire, a togliere questa fobia che c'è di quel periodo storico. E glielo dico da massa, nel senso che vedendola con un'ottica che secondo me è già strabica per come siamo conciati, diciamo, dal punto di vista. Noi ci abbiamo provato, questa mattina abbiamo provato a sdrammatizzare l'idea che non possa mai più esistere un racconto sereno della storia. Ringraziamo chi ci ha ascoltato e chi ha collaborato a questa trasmissione.